Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon fine serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Un abuso al giorno @radio24.it è la nostra mail. Guardie o ladri sull'home page del Sole 24 Ore è il mio blog. Ieri abbiamo cominciato a parlare di una provocazione di un imprenditore che vive sotto scorta in un bunker. Io l'ho visitato, quindi posso dirlo, non esce di casa, è isolato anche dalla cittadinanza di Palmi, un imprenditore calabrese che ha denunciato l'andrangheta. Sta pagando un prezzo durissimo e quindi dovremo tutti cercare di capire anche come si vive in certi territori quando si decide di rimanere. E Saffioti ha deciso di rimanere a Palmi e ha lanciato una provocazione che può piacere o non può piacere, ma è un punto di partenza per ragionare su cosa? Ragionare su come è possibile fare in modo che le imprese edili abbiano un certificato di legalità e trasparenza, non siano inquinate dalle cosche, non siano soggette alla violenza delle cosche, siano pulite, quindi noi tutti possiamo sapere che agiscono in maniera legale e che soprattutto il cemento che usano poi alla fine è cemento davvero. Allora, qual è la provocazione di Saffioti? Lui dice, così come per legge c'è un obbligo di assumere una persona diversamente abile nelle imprese pubbliche e private ogni 15 assunti, ebbene cerchiamo il modo di ragionare su una corsia equiparata agli altri, quindi non privilegiata ma equivalente agli altri, nei lavori pubblici, quindi nelle commesse dello Stato da parte di coloro che denunciano le cosche. Questa è l'idea di Saffioti. Noi abbiamo sentito ieri Bonifati, abbiamo cominciato a sentirlo, Bonifati, Vincenzo Bonifati, che è a capo del comitato Mezzogiorno dell'ANCE, che ha cominciato a riflettere con noi su questa provocazione, invitando Saffioti a portarla sul tavolo dell'ANCE, ma Bonifati lanciava l'idea dell'albo nelle prefetture per avere fornitori onesti, così come titolava il Sole 24 Ore il 25 marzo, intervistando appunto Bonifati. Buongiorno Bonifati. Buongiorno a lei. Allora, arriviamo quindi al punto, un albo nelle prefetture, perché questa idea dovrebbe essere vincente? Perché il monitoraggio costante delle attività di cava, di inerti, della fornitura dei bitumi evita il contagio tra le imprese sane e le imprese che non lo sono. Il monitoraggio, siccome è un'attività che è ferma e legata al territorio, parte dal presupposto che lo Stato debba controllare il territorio e non i cittadini. Lo Stato, che ha la possibilità tramite le 93 prefetture che sono presenti, le prefetture che coordinano, carabinieri, polizia, guardia di finanza, guardia del corpo forestale, eccetera, possono tranquillamente fare un monitoraggio attento di tutte le attività di cava che sono presenti. Benissimo. Sul territorio. Benissimo. Quindi questo significa che quando io, che vengo da un'altra città e vado a lavorare in una zona a Palmi come a Torino, vado in prefettura e chiedo qual è la ditta abilitata per fornire il calcestruzzo e i bitumi. La prefettura mi dà un elenco delle ditte, io farò la mia indagine commerciale e lavorerò in maggiore serenità. Questo significa che successivamente, se laddove dovesse risultare una di queste imprese colluse, non c'è il presupposto che io l'abbia conosciuto prima e che abbia fatto degli accordi sotterranei. Bene, il punto è chiarissimo. Allora, io do il buongiorno nuovamente a Gaetano Saffioti. Buongiorno. Allora, che cosa ne pensa di questa controproposta da parte di Vincenzo Bonifati? Ma può sembrare una bella iniziativa, ma ho forti dubbi sulla funzionalità. Le posso citare due esempi concreti vissuti personalmente. Una è che a un tiro di schioppo da me hanno costruito una centrale elettrica, che è stata nel comune di Rezziconi. E le posso dire che il calcestruzzo è stato portato da un'azienda che si trova a Meleto, cioè a 35 km di distanza, e il mio preventivo non è stato neanche preso in considerazione, in quanto già le porte erano chiuse, non ci interessa neanche avere un prezzo. Certo. E questo si evince anche nelle ultime operazioni della DDA. In un altro caso c'è stato un'altra impresa che ha praticamente letteralmente spostato il suo impianto per essere vicino alle operazioni che si stanno svolgendo sulla 3, che sono un altro schioppo da me, e puntualmente, dico puntualmente tra virgolette, perché la legge è lenta ma cammina, ultimamente è stato sequestrato perché dopo aver avuto il certificato antimafia, sono accorto che in effetti non lo doveva avere. Ecco, io ieri dicevo a Bonifati e ai radioascoltatori, a Saffioti, che l'idea dell'albo nelle prefetture non mi convinceva molto. Ovviamente non perché abbia una ricetta magica, non ce l'ha nessuno, ed è per questo che stiamo parlando di queste cose, ma non mi convinceva perché involontariamente Gaetano Saffioti è arrivato al punto, il certificato antimafia è stato un flop spaventoso. Ci sono imprese mafiose che hanno il certificato antimafia, quindi io non credo molto al ruolo dell'albo o dei certificati. Ci ho detto però un'idea sulla cui si può discutere, assolutamente discutere, ovviamente Bonifati, questo dico anche a Saffioti, però le mie idee contano soltanto come stimolo di discussione, quindi di riflessione fra di noi, cari radioascoltatori e cari ospiti. Stiamo cercando però di avere anche un quadro, diciamo così, super partes, per vedere se effettivamente si può intraprendere l'una strada e l'altra, quella dell'albo e quella di una corsia equiparata per chi denuncia l'andrangheta, o se invece c'è qualcos'altro che possa essere la sintesi di quello che stiamo dicendo. Allora, per trovare questa persona super partes, chi segue le mie trasmissioni da tempo lo sa, le mie inchieste sul Sole lo sa, io ho un interlocutore privilegiato che è Alberto Cisterna, che è un sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia calabrese, conosce molto bene la Calabria, di inchieste ne ha portate avanti in Calabria moltissime, e quindi a lui do il buongiorno. Buongiorno, dottor Garullo. Allora, dottor Cisterna, lei ha sentito la provocazione di Saffioti, ha sentito la proposta sottoscritta dall'ANCE presentata da Vincenzo Bonifati. Qual è il suo giudizio e qual è la sintesi che si può trarre? Voglio dire, sono due prospettive diverse che, insomma, sono anche il portato di due esperienze di vita diverse, nel senso che Saffioti è un testimone di giustizia sotto protezione, un imprenditore coraggioso, voglio dire, una sorta di fiore all'occhiello della magistratura calabrese nelle indagini di mafia. Certo. È un esempio da proporre. E quello che dice Gaetano Saffioti è comprensibile ed è ragionevole, ma si tratta in questo caso di prevedere che coloro i quali, come Gaetano Saffioti, ma come lui, hanno effettivamente svolto un'attività di cooperazione con le istituzioni, siano in qualche modo privilegiati nei modi in cui lei ha detto, cioè in condizioni equivalenti, nella possibilità di lavorare. Perché qui il discorso vero è questo, che la minaccia più grave a Gaetano Saffioti oggi non la porta l'andrangheta, la minaccia più grave all'impresa di Gaetano Saffioti la portano i suoi colleghi, nella misura in cui non gli danno la possibilità di lavorare. Certo, infatti lui l'ho appena detto. Perché il problema vero della sua impresa è che l'andrangheta può anche essere fermata dalla scorta, dalle misure di protezione di cui Gaetano Saffioti usufruisce legittimamente, ma certo nessuno può portargli il lavoro. Quindi, se la sua proposta è nel senso che coloro i quali hanno fatto un percorso di quel genere siano in qualche modo tenuti in considerazione, vorrei ricordare, ma lei lo ricorda senz'altro, che quando a Lamezia ci fu quel gravissimo attentato contro quello stabilimento che produceva gomme per autovetture e mezzi di trasporto, fu il ministro dei trasporti Bianchi, il viceministro dell'interno allora Minniti, a far sì che quella ditta lavorasse per conto delle ferrovie calabro-lucane. Assolutamente, per conto delle ferrovie, certo, lo ricordo perfettamente. Poi c'è il problema di cui parla il dottor Bonifati. Ecco, invece dell'idea di Bonifati, esatto, degli albi nelle prefetture. Vede, qui il settore degli appalti è un settore delicato, certo importante, ma comunque conoscibile. Cosa voglio dire? Voglio dire che se la regola continua ad essere che l'impresa che arriva o l'impresa del luogo sceglie il mafioso, è chiaro che l'albo diventa una sorta di schermo insufficiente, perché quelle che non funzionano in Calabria come altrove sono le regole del mercato. Le regole del mercato vorrebbero che gli imprenditori per bene si servano di altri imprenditori per bene. Se l'imprenditore per bene ha il problema che non può scegliere l'impresa, per così dire, onesta, ma deve in qualche modo rivolgersi a quella mafiosa, è chiaro che lo schermo dell'albo diventa insufficiente. E però, ecco, questo voglio dire, perché è un segnale importante, certo, che l'ANCE, certo, manda e va colto. Che manda l'ANCE, certo. Ecco, e per questo non va sottovalutato. Assolutamente. Anzi, va assecondato e portato. Quanto meno discusso, certo. Accompagnato da alcune altre cose, però. Assolutamente. Perché la prima cosa che qui bisogna prevedere e diventa impellente e che in qualche modo si trovino forme di controllo del mercato degli appalti che prevedano da un lato l'obbligo della denuncia. C'è poco da fare, non deve essere un obbligo punito penalmente, lo vado dicendo da sempre, non si tratta di penalizzare l'imprenditore o il commerciante che non denuncia l'estorsione sotto il profilo penale, appunto di una sanzione penale, ma di una sanzione amministrativa o di altro tipo, sì. Perché qui insomma è chiaro che quando lo Stato farà la sua parte e la farà fino in fondo, potrà pretendere da tutti un dovere di cooperazione. Quando parlo di sanzioni amministrative voglio dire è inutile condannare l'imprenditore o il commerciante che non denuncia a 2 anni di reclusione, pena sospesa, non menzione, fare un processo inutile e vessatorio, tanto vale sospendergli per 5 mesi l'attività o interdirla per un certo periodo, in maniera tale che egli abbia uno schermo, questa volta lui utile contro il mafioso, a cui dice se pago chiudo, se pago ne ho un danno. Allora noi cari radioascoltatori abbiamo dedicato 2 puntate a questo tema, abbiamo detto più di una volta, lo ripetiamo, che non ci sono ricette magiche, però è bene parlarne, è bene parlare di come possiamo essere garantiti nella legalità e nella trasparenza degli appalti. L'abbiamo fatto con la proposta di Saffioti, lo abbiamo fatto con la proposta dell'ANCI, abbiamo sentito Vincenzo Bonifati e abbiamo sentito la sintesi del sostituto procuratore nazionale Alberto Cisterna. Non è un argomento che abbandoniamo, perché il segno della civiltà in un paese si riconosce anche da questo, da un'impresa sana e da un mercato concorrenziale senza distorsioni di tipo criminale. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio in regia Fabio Cantadori, in studio Laura Fagin e Roberto Galullo, vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.